numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Ma che casa? Ah? Non capito che casa. Una banchina con un sacapelo. Uno che non ha la casa, gli dici di andare a casa. Come si fa? Io resto a casa. Voci di chi non ha casa. Cittadini e cittadine senza dimora raccontano come hanno vissuto il lockdown a Trento. Capitolo 1. Un deserto che non ho mai toccato. Mi chiamo Giuseppe, ho 29 anni. È il 5 marzo del 2020 e io e mio marito ci siamo sposati a Trento, al comune in Piazza Fiera. Non si sentiva ancora... Sì, qualcosina c'era, però l'unica restrizione che avevamo era non tantissime persone all'interno, infatti erano una quindicina forse, in circa numero più, numero meno, adesso non ricordo con esattezza. È stata una giornata comunque magnifica. Il taglio della torta, quando abbiamo finito di tagliare la torta abbiamo bevuto io dal suo bicchiere e lui dal mio. Il primo bar non c'è stato perché essendo che eravamo un po' timidi, quindi poi io sono un tronco di legno, però comunque è stato un giorno fantastico, pieno di sentimento. Infatti quando poi è finita la festa siamo andati al B&B. Poi io e lui siamo andati a mangiare fuori qualcosa vicino al parco, che c'è un fast food, e abbiamo fatto una cosa intima io e lui. Ovvio i soldi per andare al ristorante non li avevamo, però anche se sta una cena comunque normale, mi è piaciuto perché poi secondo me non contano le grandi cose, ma le cose piccole, ma fatte con sentimento, con amore, quindi così è stato. Mio nome è Gregor Gora, io grande cattolico di Polonia, cattolico dell'Italia, 25 anni, chierichetto. Coronavirus è triste per tutti, scuola chiude, biblioteca, niente cinema, mascherina, vaccino per tutti. Poco triste. Io c'ho lo stress perché io niente lavoro. Non mi piace vagabondo, clochard, non mi piace. Dove cerco lavoro? Fabbriche chiude. Quanto tempo ancora ha virus? Non lo so. Sono Bauman Peter. Il contatto fisico è una delle parti che mi spaventa un po' di più, perché il contatto fisico aumenta la trasmissione. Questo fa un po', non paura, ansia. L'ansia di viaggio sempre con te, diciamo, nei ultimi 4 mesi. Quando ero sulla strada, somiglia al Covid, somiglia tanto, perché hai la paura che se ce l'ha una malattia meglio non avvicinarsi. I primi 2 settimane erano normali, però la gente adesso cambia atteggiamento, cambia, come si dice, è cambiato in autodifesa. Ti hai lavato le mani? Sì o no? La gente non si fida più, ognuno prova di non dirlo che abbiamo messo un muro, ma abbiamo messo un muro di distanza. Sono Bianca, mi chiamo Bojan Bianca, sono romena. Sto con ci qua in Trento di 13 anni quando sono tornato qua in Trento. Quando c'è virus più peggio. prima per non venire via, lui stava vicino di te, parlava, chiacchierava con te. Adesso non hai paura. Dopo conti la vecchietta, ti parlo anche male, capito? Ci vai lontano, vai, conti che hai paura di virus. No, quando ti avvicini dici vai lontano, che paura. Perché c'è paura? Quando c'è paura prendi virus, quando non c'è paura non prendi virus. Dopo ti bestemma la vecchia, madonna che parolacce ti dici. Io ho parlato una vecchia, vaffanculo. Io ho parlato vaffanculo, cioè tu c'è paura di virus, cosa fai? Non ti ha fatto male, niente, cosa? Non bisogna mai appiccicarsi alle persone che magari non conosci, perché chissà, perché se non sai il loro stato di salute, che hanno chissà che malattia, potresti prendere anche quella malattia lì. Io so che ognuno deve tutelare, cioè cerca di tutelare la propria salute, però a volte la gente esagera nei modi di fare. Per esempio, se io sto camminando sul marciapiede e ci sono altre persone che arrivano di fronte a me, avendo indossato la mascherina, loro cambiano strada. Va bene, sono modi un po' strani, perché va bene, io non so. Perché io penso, allora, se tu non vuoi neanche passare vicino a me per il discorso del Covid e che c'ho la mascherina, vuol dire che la mascherina a cosa serve? Siamo tutti in peggio di una guerra mondiale, questa, cioè. Un problema grosso questo. Paura no, però sei preoccupato sempre. Sempre ci viene il dubbio quando prendi male o influenza, così. Cos'è? Un tuo amico ti dica, hai preso coronavirus. Allora siamo tutti preoccupati, cioè. Anche uno ci fa finta che alcuni ci dicono non c'è la coronavirus, però fanno finta che non c'è niente, però alla fine tutti hanno paura. Cioè. Io sento cambiato tutto 100% il sistema della vita. Pensavo che da solo, perché io comunque ce l'ho problemi miei di commenti, di lavoro che non sono stabili, però con gli altri si sente la vita che è cambiata, tutta è cambiato anche il ritmo della vita qua a Trento come lo conosco. A me un pochino mi fa paura perché è deserta il posto di sera. L'altro posto di Trento, quando vuoi andare verso la stazione, è deserto. Il lato opposto che c'era questo dormitorio che stava prima, che hanno aperto, è deserto. Verso il Duomo è deserto dentro. È brutto. Che prima Trento era diversa un anno fa. Era più bella. Da quando è venuto questo virus è più deserta, più chiusa. Invece prima no. È tutta un'altra cosa. Perché io pure ho perso il lavoro. Ma tutto questo casino. L'hanno chiuso e l'hanno aperto più. Ho provato parecchi altri parchi, ma non concluso niente. Ma mi sto ricominciando un'altra volta da capo. Altra gente che stanno morendo. Non è bello. È un deserto. Che non l'ho mai toccato, è la prima volta nella mia vita e spero sarà per l'ultima. Questa è una disgrazia che è venuta da Dio. Io mi auguro che questo vaccino va bene. Però le genti sono trasformate. Io dal mio punto di vista, dalla mia esperienza personale, come che io ho vissuto tanti anni qua in Italia, addirittura si è trasformato come una specie di discriminazione, di pregiudizio, perché le agenti addirittura ci passano vicino a te per strada, ma non è quella metri di distanza del regolamento, addirittura lui si sposta e ti lascia tutta la strada e ti guarda così con gli occhi storti. Si è trasformato secondo me proprio la vita quotidiana è cambiata completamente, non è più come una volta, non c'è neanche quel gusto da tenerti vivace e ti svegli la mattina, ti guardi con una prospettiva migliore e là. E lì c'è tante cose che ti fanno crollare proprio moralmente. cambiato il mondo veramente. Io parlo per me stesso, non ce la faccio più. Prima di tutti, a livello economico ti trovi proprio a 7-0. Passando tutta la giornata fuori, veramente un inferno. Anzi, non ti viene in mente, per esempio, non puoi riflettere magari da risolverti il tuo problema, vuoi cercarti il lavoro o là. E tu non vedi l'ora che finisce la giornata e basta. Alle volte mi preferisci sempre passare la giornata da solo. Sì, va bene, vengo qua come adesso, un po' di freddo per caricare il telefonino, roba varia, però la maggior parte della giornata io gira come un scemo, e se tu mi chiedi dove vai non lo so neanche nemmeno io dove vai, gira così. Ti giri intorno, alla fine tre sono quattro case. Ti giri in mezzo alle vie e non ti senti neanche rilassato, perché ti prendono in qualsiasi momento, ti cominciano, ti mettono in difficoltà. E cosa fai là e vogliono farti la multa. Durante il lockdown, i dormitori di Trento non potevano accogliere nuovi ospiti. Chi è rimasto in strada ha dovuto affrontare un nuovo disagio, evitare i controlli della polizia. Dove vai quando ti chiedono di restare a casa, ma tu una casa non ce l'hai? Ne parleremo nella prossima puntata di Io resto a casa, voci di chi non ha casa. Un podcast di Il gioco degli specchi, Punto d'incontro e Atas Onlus, realizzato da Davide Grotta e Gabriele Borghi. Finanziato da Fondazione Caritro, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Se loro vuole trovare noi, siamo qua, nel Punto d'incontro.